got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio, e cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento di Radio 24 che ospita sempre un italiano di origine straniera. Lo sentite questo profumo? È un profumo di Brasile, di una feijoada brasileira che cucineremo stasera insieme alla nostra ospite che è chiaramente di origini carioca, di Rio de Janeiro, e quindi ci apprestiamo anche a cucinare dei piatti adatti, no, a questi prossimi mondiali in Brasile. Io do la buonasera a Cristiana De Caldas Brito, buonasera. Buonasera. Benvenuta, benvenuta alla nostra trasmissione di Radio 24. Sugli italiani con radici altrove. Lei ha radici carioca, è così? Come no, io sono nata a Rio de Janeiro ed è una scrittrice italiana, però per vivere in un'altra molto bella anche a Roma. A Roma, lei è una scrittrice italiana, per chi non la conosce ed è all'ascolto, la presentiamo. È una scrittrice appunto nata a Rio de Janeiro, vive e lavora a Roma, è laureata in filosofia in Brasile, si è poi laureata in psicologia all'Università La Sapienza di Roma, è autrice di molti racconti, di testi anche teatrali e di un romanzo per Cosmo Iannone Editore, 500 temporali. Lei ha scritto questo bellissimo racconto con il quale ho voluto iniziare, Cronaca di una feijoada brasileira. È un racconto molto divertente, è la cronaca di un fagiolo, no? Il punto di vista è raccontato da un fagiolo, no? È raccontato da un fagiolo che insomma è caduto per terra e si lamenta un po' della sua situazione di isolato. In un flashback da fagiolo immigrato mi rivedo insieme ai miei compagni un pacco che dall'aeroporto di Rio de Janeiro era approdato a Fiumicino. Questa è una parte del suo racconto. Ci confortava sapere che la nostra meta, dopo essere stati sballottati nella pancia di un Boeing 747, sarebbe stata la pancia degli italiani. In aereo avevamo elaborato un sacco di congetture. Piaceremo agli italiani? Saranno pronti ad accettarci? Non avranno dei pregiudizi nel vederci così neri? Quei pensieri ci davano un po' di angoscia, ma appartenevano alle normali elucubrazioni di un fagiolo migrante. Questo è un racconto molto divertente, ma è anche uno spunto per parlare delle elucubrazioni nella testa in realtà di una persona migrante. È vero, io faccio sempre così, uso un pochino di ironia, no? Di humor, per arrivare al sodo della questione. Qui stiamo parlando di pregiudizi, no? Di razzismo, ed è una forma leggera, è un fagiolo che purtroppo non farà parte della feijoada, è caduto sul pavimento e lì rimane tutta la notte, mentre gli altri suoi compagni sono già nell'acqua per ammorbidirsi ed essere parte poi dei fagioli. Non so se lei conosce, Valentina, un racconto mio del polpastrello, in cui io praticamente faccio una critica della legge Bossi-Fini, quando richiede a tutti i migranti di essere di avere le impronte digitali, no? Registrate. Allora si presentano alla Questura di Roma 6.000 polpastrelli e creando un grande disagio alla Questura, al Questore, e alla fine si capisce che, cioè, il racconto fa capire con una certa ironia che sarebbe una cosa impossibile. Sì, questa dell'ironia è una chiave che lei usa spesso, no? Sì. Per far riflettere. Sì, molto molto spesso. È un modo di alleggerire, no? Quello che uno critica, perché lo scrittore è sempre uno che fa critica, non al paese dove sta, ma alla vita stessa, critica l'ingiustizia, critica le disavventure che capitano, e penso che essere scrittrice significhi proprio questo. Quindi una scrittura impegnata, che non disdegna l'impegno. Esatto, difatti il romanzo che ho scritto si svolge in una favela di Rio e si sente molto questo divario fra chi sta molto bene e chi sta molto male. Sentiamo un po' di musica. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Insomma, andiamo in atmosfere brasiliane. In realtà è un paese che noi siamo abituati un po' a legare all'idea di un paese allegro, felice, spensierato, un gigante buono, un paradiso di bevitori, no? E di persone felici che ballano la samba. Ecco, è un'immagine esotica e stereotipata chiaramente del suo paese, dove in questi giorni proprio si prepara il mondiale tra disordini e anche violenze. È vero, cioè il popolo trova ingiusto spendere miliardi in preparativi per il mondiale quando i problemi fondamentali di salute, scuola, abitazione non sono risolti ancora. È vero che questa immagine di cui lei parlava, di un popolo ottimista, corrisponde alla verità. Nonostante la situazione difficile in cui vivono, il brasiliano ha sempre un motivo per cantare. E c'è un proverbio, credo che ci sia anche in Italia, no? Che dice: chi canta i mali spaventa, cioè manda via i mali. E così i brasiliani cantano sempre, perché i mali sono sempre lì. E allo stesso tempo però dobbiamo coniugare questo atteggiamento così allegro con delle difficoltà oggettive nella vita reale, per le quali stanno protestando proprio i brasiliani in questi giorni. È vero, è vero. Lei che notizie ha dalla sua famiglia, dagli amici rimasti a Rio, di questi preparativi per i mondiali? Allora, c'è un pochino di paura, perché ci sarà... prevedono l'arrivo di tante tante persone, e naturalmente appunto per questi disagi c'è un po' di timore, ma io penso che alla fine succederà come è successo al Papa, visto che in mezzo alla moltitudine la sua macchina andava, tutti volevano toccargli la mano, essere vicino alla sua macchina, e non è successo assolutamente niente. In fondo è un grande momento, un mondiale in Brasile, che è il pentacampione, no? Molti protestano anche per la casa, perché c'è un problema evidentemente di alloggi. Come no? Uno dei problemi è questo: come faremo a ricevere tanta gente che arriva? lei diceva in questo senso, no? Sì, anche nelle spese che vengono fatte per le infrastrutture di questo mondiale e invece la difficoltà di persone comuni di trovare un alloggio. Certo, l'alloggio di chi non ce l'ha, certo. Di chi non ce l'ha e poi l'alloggio per tutti i turisti che arriveranno. Chissà se gli alberghi sono sufficienti per tutti. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Allora, atmosfere brasiliane, carioca per la puntata di questa sera con la scrittrice italo-brasiliana Cristiana De Caldas Brito. Abbiamo parlato di fagioli, di questa fagioada brasileira che la cui cronaca è proprio il tema di uno dei suoi racconti, ma non le ho chiesto cosa ci cucina questa sera. Sicuramente italiano. Ormai cucina italiana è da molti anni in Italia, quindi la sua cucina è diventata un ibrido forse? Sì, sì, guardi che io insegno alle mie amiche brasiliane a fare la pasta con il sugo alla matriciana, tutte alla carbonara, e quando vado in Brasile cucino io la pasta per loro, perché il brasiliano cucina la pasta molto scotta. Allora, abituata qui con la pasta al dente. Beh, diciamo non solo il brasiliano, fuori dall'Italia va molto la pasta scotta, no? È vero. Invece per fare invece questa feijoada brasileira, che cosa ci vuole? Allora, prima di tutto bisogna comprare i fagioli neri, quelli brasiliani o messicani. Si possono trovare per chi abita a Roma a Piazza Vittorio, oppure in negozi specializzati di alimentari, no? Ma lei sottolinea che al mercato costano di meno. Sì, sì, sì, sicuramente. Quindi poi, fagioli neri? Fagioli neri che si devono lasciare di bagno per ben 12 ore, perché sono molto duri. E poi, se possibile, cucinare nel tegame a pressione, che facilita molto. Bisogna mettere un pezzo di pancetta, delle salsicce, un pezzetto di manzo, e non si mette il sale perché tutto questo, essendo già salato, se si mette pure il sale poi non c'è modo di togliere, e quindi alla fine di tutto si mette il sale. Poi accanto a questi fagioli va cotto del riso bianco, riso asciutto, che è una specie di come fate il vostro risotto, la cipolla tagliata, soffritta con un pochino di aglio, poi si dora il riso in questo soffritto e si mette il doppio dell'acqua per la quantità del riso. Quando si asciuga, che vengono quelle palline sopra, quei buchini, allora vuol dire che è pronto. E poi si serve non solo col riso, ma con la farina di manioca, che, come lei sa, è un tubero, e praticamente si fa di questa farina un pochino di olive, di sale, di uovo sbattuto, e praticamente si aumenta questa farina e si serve insieme al liquido dei fagioli con i grani anche. Mi ha stupito che nella ricetta c'è anche come accompagnamento 1 o 2 fette d'arancia. Sì, arancia perché dà quel gusto un pochino di esotico, no? Ai fagioli che di per sé hanno un gusto di sale. L'arancia dà quel dolce, soprattutto se penso alle arance brasiliane che sono molto dolci. E poi insomma per accompagnare, anzi per anticipare questo piatto come aperitivo, la caipirinha. La caipirinha, sì, che si fa con l'aguardiente brasiliana, no? Che bisogna portare dal Brasile e è ormai un classico. Prima della feijoada si prende la caipirinha. E adesso, prima di assaggiare tutto questo, un po' di musica. Essa menina, como é que você já fica toda feminina? Allora, siamo con la scrittrice italiana di origine brasiliana Cristiana De Caldas Brito. Ho letto un commento al suo romanzo, il primo romanzo brasiliano scritto in italiano. Un commento che mi è piaciuto molto, perché in effetti lei usa innanzitutto una lingua ibrida, un po' come ci raccontava della sua cucina. E poi è un romanzo veramente sudamericano, senza retorica, senza orpelli, in cui si scardinano un po' quegli stereotipi che dicevamo prima e sì, si parla del Brasile vero. È vero, è vero. E si parla di pioggia in un paese di sole, no? Perché 500 temporali al titolo. 500 temporali. E lei sa che è una cosa molto curiosa. Questo romanzo scritto da una brasiliana in italiano è stato tradotto in Brasile da un'italiana che vive lì. Ah, è veramente curioso e interessante. È veramente intercultura, culturalità, no? E quindi come mai questo incrocio? È una casualità? A me era stato chiesto se potevo tradurre. Però io, a me non piace la traduzione, perché mi sembra di lavorare sul già pronto. A me piace creare, inventare delle storie. E poi, e quindi l'ha affidato a una persona che sta oggi in Brasile, sì, e che, nonostante sia italiana, immagino utilizzi anche il brasiliano di oggi, perché poi la lingua è qualcosa di magmatico che si muove, no? Un po' come la sua lingua quando utilizza questo linguaggio ibrido tra brasiliano e italiano, che leggevo da una sua intervista è frutto in realtà di molto studio, questo linguaggio, certo, che utilizza. Perché spesso pensano, quando io ho messo il portugliano, un miscuglio di portoghese e italiano nello scritto di una donna che fa la colf, pensano che sia molto facile, che basti lasciare uscire. No, io devo misurare una parola in portoghese, una in italiano, la desinenza di una parola che vada con un'altra, in modo da sembrare spontaneo. Questo è un pochino un lavoro, no? Linguistico. Però questa donna che lei cita è la protagonista di un racconto, Ana de Jesus, che è diventato anche un monologo teatrale. Esattamente, l'abbiamo fatto con musica brasiliana, c'era un chitarrista brasiliano, José Martilotta, che suonava, e c'era un'attrice brasiliana che adesso è ritornata in Brasile. Ecco, questa condizione di questa donna, che lei diceva appunto è una collaboratrice domestica, una migrante, è una condizione che lei ritrova intorno a sé. Lei vive a Roma, dove ci sono, sì, tante persone migranti, molte fanno questi lavori umili. Difatti mi sono ispirata proprio a delle persone che conoscevo, che parlano fra l'altro esattamente come Ana de Jesus, che fra l'altro era il modo di parlare degli italiani quando sono arrivati alla fine dell'Ottocento in Brasile, che sono emigrati, no? E parlavano così, mescolando le due lingue. Oggi vediamo il contrario, i brasiliani che vengono e che cercano di parlare italiano mescolando le due lingue. In un altro suo racconto c'è un altro personaggio affascinante, quello del poeta mendicante che raccoglie le parole abbandonate simili a monete dai passanti, no? C'è questa atmosfera anche magica nei suoi racconti. Cerco sempre di sfuggire dal reale con qualcosa del fantastico, no? Un po' tipico della letteratura sudamericana. Esattamente, perché il fantastico diventa un modo di risolvere i problemi che altrimenti non hanno ancora soluzione. E quindi la letteratura ci aiuta anche in questo. Ci sono anche dei racconti che sembrano tratti dalla tradizione orale, che anche questo è molto importante, sì, credo, nella sua formazione. Io ho avuto, per fortuna, non c'era la televisione nella mia infanzia. E allora ho sentito storie orali, mia nonna o mia madre, tutte e due raccontavano storie, venivano tramite la figura femminile queste storie che davano anche paura. Mia nonna non si rendeva conto, ma raccontava storie a volte brutte da sentire e dava paura, ma beata paura, perché era fatta di immaginazione, di costruzione di qualcosa e non era un'immagine già regalata, no? Come oggi i bambini hanno con la televisione, non immaginano, non si esercita più la capacità di immaginare. Tra l'altro la mamma era scrittrice, il nonno era un poeta, quindi lei viene da una famiglia in cui l'ambiente familiare l'ha probabilmente stimolata a scrivere fin da piccola. Ma quando è arrivata in Italia, è mai stata vittima di pregiudizio, ad esempio? Non di pregiudizi, no. Però ho avuto un pochino la difficoltà di adattarmi a una mentalità diversa, più formale. Le persone si davano tutte del lei e questo per me era molto strano, perché lì noi ci diamo subito del tu, soprattutto con le amiche, cioè le mogli degli amici di mio marito, no? Che conoscevo. E mi davano del lei, io pensavo non sono simpatica. Non mi hanno accettato. Dopo ho capito che lei è una forma così iniziale di conoscenza. Se poi c'è la simpatia e questa simpatia viene confermata, allora si dà del tu. Ma noi partiamo direttamente con il tu. A prendere coraggio, fede nel destino, se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiamo l'uomo nero, chiamo il babau, ti mangia tutto intero, nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura, ma passa per il buio. Rientriamo in studio per chiudere la nostra conversazione con Cristiana De Caldas Brito, scrittrice italiana originaria di Rio de Janeiro. Sta lavorando a qualche romanzo o racconto in questo momento? Sì, Valentina, ho appena finito un nuovo romanzo che si chiama Colpo di Mare. E che uscirà sempre per Cosmo Iannone? No, ancora non so, ancora devo vedere. Anche questa volta l'acqua sarà dominante come in 500 temporali. Sì, che interessante che lei abbia notato questo, perché anch'io ho notato. Non è un caso, immagino. No, non è un caso, l'acqua è sempre legata ai sentimenti, no? E credo che in fondo il mio messaggio sia un qualcosa legato ai sentimenti. E questa volta sarà ambientato a Rio de Janeiro? Questa volta è ambientata a Roma, al nord-est del Brasile e in Sardegna a Carloforte. Ah, e quindi un romanzo di una famiglia, immagino. Anche è un po' una storia di una donna, è un po' un romanzo intimista. Un romanzo di migrazione. La storia di una donna che è la sua metamorfosi, però per arrivare alla sua trasformazione molte cose intorno a lei devono cambiare. Grazie per essere stata con noi questa sera, Cristiana De Caldas Brito. Aspetteremo, io ti ringrazio. Aspetteremo in libreria il suo nuovo romanzo. La puntata di questa sera termina qui. Io ringrazio anche voi ascoltatori e in regia Paolo Corleoni che mi ha aiutato a costruire questa puntata. Mi trovate anche su Twitter @valfurla, trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti, buona serata. Ci risentiamo sabato prossimo. You've got to give a little. That's the glory of love.